24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Ho impiegato un mese per capire la storia del passero e del tacchino, quella di Bersani. L'ha capita? Farò un master in bersanese. E allora, eccoci cari ascoltatori, sono le 6:32 minuti, buongiorno, e siamo fino alle 9 in diretta come al solito con la nostra Miriam Lucchetti in redazione, il nostro alpino ieri glorificato da Alberto Forchielli. Oh, alpino, Peter Bescapè, ieri Forchielli ha detto che l'unica cosa che salva dell'Italia è il corpo degli alpini. E allora siamo non ne manca, abbiamo iniziato, c'è subito un messaggio. Roberto da Parma mi scrive: se non sostieni la Gabanelli cambio stazione radio. Oh, mamma mia, subito arriva questo messaggio al 349-238-6666. Si apre il nostro Parlamento, così tiriamo sulla serranda. Nicole Minetti è sempre qua. Tra l'altro, ho visto che ieri era intervistata da Simona Ventura. Questa in forma Nicole Minetti, però ha fatto un'intervista. Vabbè, eccoci qua. Il Parlamento è aperto. E allora, si ricostituisce un po' la coppia inossidabile, d'acciaio inossidabile del mercoledì, no? E già ride. Paola Saluzzi. Bentornato Alessandro, bentornati. Già sento che ride. La conduttrice di Sky TG24 pomeriggio oggi, chissà, parlerà forse del Quirinale, forse della corsa al Quirinale. Una cosa originale. Che intuizione. E saluto Luca Dini, direttore di Vanity Fair. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno, ben ritrovati, buongiorno Paola. Buongiorno direttore. Eccoci qua, allora, se non sostengo la Gabanelli, Roberto da Parma già cambia radio, stazione radio, vabbè, non è che questo mi porterà. Io dico subito una cosa: Gabanelli è una giornalista straordinaria, forse uno dei più importanti e bravi giornalisti che abbiamo in Italia, ma cosa c'è, cioè, al Quirinale? No, vabbè, insomma, intanto sentiamo ieri la Gabanelli a Ballarò. Ma lei accetterebbe se la votassero? Eh? È una... Adesso ci penso, stanotte ci penso, poi domani te lo dico. Anche perché io credo che per ricoprire un ruolo così alto, no? La più alta carica dello Stato, serva una competenza politica che io non credo di avere. Oh, lo dice lei, Paola, lo dice lei, non è che adesso mi dicono sei contro la Gabanelli, per carità. Ma infatti non è questione di essere contro la Gabanelli, che la Gabanelli ha dato la risposta più saggia nella gratificazione, che immagino sia immensa, di sentirsi chiamata o scelta da una parte della popolazione a poter ricoprire quel ruolo. Dopodiché vogliamo un presidente, tu che nome avevi detto, tra l'altro. Una presidentessa. Ma guarda, ma i nomi sono tanti, Alessandro, nel senso, Anna Maria Cancellieri, la stessa Paola Severino, se vogliamo andare sulle donne, la Emma Bonino, tanto che tanto divide, su questo non c'erano dubbi. Per la Gabanelli è davvero tanto di cappello, ma ora la battuta purtroppo ci vuole. Antonio Di Pietro direbbe che ci azzecca, insomma, vabbè. Non vorremmo mettere insieme troppe cose, ma è così. No, ma infatti, per carità, però sentiamo, Luca Dini, tu direttore di Vanity Fair, vorresti Milena Gabanelli al Quirinale? Io devo dire che quella risposta che le ha dato personalmente me la fa salire di molti, molti punti. Un po' di saggezza non guasta. No, sono spiazzato, devo dire. Mi viene anche da dire a volte perché no. Devo dire che quando io sento sempre ripetere certi nomi, Galanti, cioè, quelle figure, diciamo, classiche. Ecco. Quelli che ci sono sui giornali, non so, Amato, Prodi. Per carità, voglio dire, rispetto massimo a persone di... però mi viene anche da dire, cioè, quando è stato eletto 7 anni fa Napolitano, io non credo ci aspettassimo poi quello che è successo, cioè un personaggio di questo, cioè, alla fine è stato, io credo, veramente uno dei migliori Sì, però Napolitano è stato ministro dell'interno, è stato un è un politico di lunghissimo corso. Cioè, la Gabanelli sarebbe una rivoluzione, perché Milena Gabanelli, a parte che non ci sono i numeri, cioè è uscita dal voto di Grillo, ma non credo che il PD appoggi questo. Anche se sentiamo Beppe Grillo ieri, è in tour in Friuli dove si vota, sentiamo, parla proprio a Bersani e tra l'altro con un tono, dice, senza provocazioni, veramente Bersani vota la Gabanelli, sentite. Io spero vivamente che accetti. Volevo fare dare un consiglio a Bersani, senza ironia, senza battute, seriamente, potrebbe essere un punto di incontro. Voti la Gabanelli anche lei. Voti una signora che bene o male ha sempre fatto il suo lavoro, anzi, bene piuttosto che male. Ho telefonato a Di Pietro, non era molto contento, però la Gabanelli è una che non ha mai fatto inciuci con Berlusconi, un miracolo oggi, e poi è una signora. Sarebbe veramente un grande segnale. Un grande segnale, Luca Dini. L'appello è accorato e pacato, è serissimo da parte di Beppe Grillo. Per una volta senza urla, no? Accetterà Bersani, Luca? Ma insomma, la vedo dura, onestamente. Però la vedi dura. Se no c'è l'importante che abbia 50 anni, come è scritto nella Costituzione. Come dovrebbe ricordare la capogruppo del Movimento 5 Stelle, Roberta Lombardi. Sì. E sì. Tra l'altro, al secondo posto c'è Gino Strada. Vabbè, cioè anche Gino, no, ma per carità, anche lì massimo affetto per Gino Strada, quello che fa per Emergency. E Paola, questo è l'effetto Beppe Grillo, no? Una rivoluzione. Cioè, da una parte ci sono i nomi Paludati, Amato, Prodi, Sabino Cassese è uscito, D'Alema. D'Alema, attenzione, pare sul Corriere della Sera c'è scritto che Berlusconi pare ieri si aggirasse dicendo con Bersani l'accordo è fatto, è bastata una telefonata, l'accordo è fatto, forse era un bluff, ed è spuntato il nome di D'Alema. E vedete che io l'ho sempre detto che riesce a mettere uno dei suoi dappertutto Berlusconi, è sempre così. Paola, ci sarà D'Alema forse, questa è... Ma io vorrei avere doti divinatorie per dare in anteprima a Parlamento con grande piacere già il nome del Presidente della Repubblica, ma insomma si tratta di avere pazienza, 24 ore, perché probabilmente, credo, forse l'unica cosa da regalare al popolo italiano sarà una bella votazione completa e totale nella stessa giornata del 18 e via abbiamo il Presidente della Repubblica, perché dopo che si sono attesi 52 giorni, sì, 51, sì, ecco, forse è il caso, almeno su una votazione, di essere tutti coesi, come si dice in questi casi, e partire con un presidente, ma coesi per capire se le camere. Ma dove la vedi la coesione tu? Ma scendi in ma piazza. Ma lo vedo, proprio per questo che io auspico, ecco, parlo in maniera antiquata, ma antica, ma insomma voglio dire che tiene una mossa, ecco, questo è il senso. No, questo sì. Sentite, vabbè, in Italia tanto, facciamo sentire anche questa di Beppe Grillo, attenzione sulla ghigliottina, Beppe Grillo dopo essere stato un po' pacato, poi ha perso un attimo, ha detto se falliamo noi arriva la ghigliottina vera, sentiamo. E questa è l'unica possibilità di mandarli via in modo democratico. Questa è una rivoluzione francese senza la ghigliottina. Se falliamo noi arriva la ghigliottina. Adesso, al di là delle battute, Luca, a me questa cosa un pochino preoccupa e spaventa. Quando due giorni fa ho letto anche un'intervista di Raffaele Bonanni, quindi non certo una persona che fa comizi urlati, diciamo, e ha detto attenzione perché la coesione sociale rischia di rompersi se non si, ovviamente lui diceva se non si trovano i soldi per la cassa integrazione in deroga, e la coesione sociale se si rompe rischia quest'onda anche di disagio sociale di investire in altre forme la nostra società. Cioè c'è davvero il timore che siamo un po' in una pentola a pressione che sta bollendo pericolosamente? Ma per me c'è più che un timore, ormai è una fondata preoccupazione, una constatazione quasi. Devo dire che anche per questo a me la prima parte di Grillo era piaciuta, perché purtroppo in questi giorni si è visto un livello di, non so se chiamarlo odio sociale, di acredine nei commenti, nei rapporti, devo dire purtroppo da questo punto di vista il Movimento 5 Stelle ha fatto la sua parte. Ci vuole un segnale di responsabilità, adesso non parlo di inciuccio di cose, però obiettivamente ho la sensazione che la politica, nella politica ci metto tutti, ci metto anche gli eletti dei 5 Stelle, non abbiano tutti la consapevolezza del livello di tensione, di esasperazione. No, ma è vero. No, ma adesso noi anche ne sentiremo nella nostra segreteria telefonica tra poco, cioè è un piccolo spaccato, per carità, è vero, un numero di telefono dove la gente chiama, magari si sfoga, ma in realtà Paola, le telefonate le telefonate invece la gente è arrabbiata forte, ma vera, arrabbiata. Ma vedi, Alessandro, il valore della radio e in questo caso del lavoro che fate voi in maniera particolare è proprio questo, non è soltanto dare l'opportunità di sfogo, è registrare nel senso tecnico del termine, un malessere che esiste e che, come dice giustamente Luca Dini, è stato anche alimentato perché le parole pesano, le parole sono pesanti, hanno un peso specifico pari a quello del piombo. E purtroppo in questo momento c'è la miccia corta e sempre la possibilità di vedere uno col cerino lì pronto a dare fuoco. Questa è la cosa più preoccupante, l'odio sociale di cui parla Luca Dini. Questo sì. Ha ragione forse di esistere da una parte, certo, perché poi ci sono sempre quelli che lo alimentano, no? No, questo è pericolosissimo, sicuramente. No, poi voi sapete, noi qua a Parlamento facciamo anche delle cose un po' con il sorriso sulle labbra, ci piace iniziare la giornata così, e tra poco, infatti, avrò una domanda, lo dico subito, Paola, abbiamo una domanda molto intima per te, ma dopo, tra un attimo. Però no, devo inserire questo argomento. Allora, l'America, quello che è successo a Boston, tra l'altro Luca Dini ha vissuto per tanti anni in America. C'è questa foto che mi toglie il fiato, che trovate su tutte le prime pagine dei giornali. È una delle vittime, questo bambino di 8 anni, Martin, che viene fotografato, tra l'altro tiene in braccio era a scuola probabilmente in questa foto, e tiene in braccio questo cartello che ho scritto No More Hurting People, Peace. Cioè un bambino, una delle vittime, Martin di 8 anni, che tiene questo cartello chiedendo pace, non so, di un anno fa, di 6 mesi fa. Cioè questa foto che, Luca, mi manca proprio il fiato a guardarla, cioè ti guarda questo bambino, che è il simbolo di una delle 3 vittime di Boston, insomma l'America è ancora una volta colpita, non si sa neanche chi sia a questo punto, si brancola un po' nel buio. Il terrorismo però è questa cosa qui, è lo spiazzare e togliere punti di riferimento alle persone. Io devo dire, ho la sensazione che almeno, cioè io siccome ho, tra l'altro, un figlio che vive lì e mi ha detto che in realtà il rischio che si scateni di nuovo la caccia a una parte del mondo che potrebbe aver generato il colpevole è meno forte di quanto sembri qui, almeno si spera, nel senso che alla fine viene più accomunato per il momento a un gesto di follia, e tutto sommato come quello di quei 20-21 bambini che sono morti qualche mese fa e che incredibilmente venivano ricordati proprio in quell'ultimo miglio di maratona. Infatti. No, ma guardate, se prendete oggi qualsiasi giornale lo trovate sul Corriere, Pubblica, il Giornale, la Stampa, addirittura proprio la Stampa lo mette in primo piano, no? Questa foto, immaginate un bambino di 8 anni, un po' senza denti, no? Quando i bambini perdono i denti, che tiene questo cartello qui chiedendo pace, una delle 3 vittime, Martin Richard, che era lì, aspettava il papà che stava correndo, no? Papà, ecco, posso dire una cosa, Alessandro? Quando parlo di odio sociale, per esempio, ho visto alcuni commenti alle notizie online, e quando vedo la gente che dice, ma insomma pensate ai 200 afghani che muoiono ogni settimana, non so, per carità, tutto vero, giustissimo, però veramente non può essere questo il modo di rispondere. No, certo. Posso dire una cosa, direttore? Sai perché non può essere il modo di rispondere? Perché quelli che scrivono così, dei 200 afghani non gliene frega niente. Non gliene frega niente, non sono persone che scendono in piazza per manifestare a favore degli afghani lo scrivono per scriverlo. Ma poi mettessero un cerotto sulle dita, unendole tutte quante insieme, per non scrivere queste baggianate né su Twitter né su altri posti dove possono scriverli. 24 mattino. Vedi, Alessandro, io ho imparato una cosa nella vita, che qualsiasi cosa l'uomo semina raccoglierà. Ognuno pagherà per tutte le cose che avrà fatto. Questa è una grande consolazione. Io, in qualità di cittadino onesto, vorrei proporti una rosa di nomi per la candidatura a Presidenza della Repubblica. Vallanzasca, Totò Riina e Provenzano, che sicuramente saranno più onesti, più coraggiosi, più lungimiranti di quei corrotti di cui dispone la classe politica. Io non voglio né Finocchiaro, né Prodi, né Beltroni, né Bersani, né D'Alema, né Marini alla Presidenza della Repubblica, perché sono tutti un gruppo di mignoni di fide alla mignotta. Chiaro? Metterli tutti sulla nave, sti politici, e mandarli in mezzo al mare e poi un sommergibile sotto che le lancia un siluro e finita la crociera. Qua andiamo in rovina, andiamo in rovina, caro Milan. L'Italia ormai è finita. Bersani e Berlusconi, se volete dare un dispiacere agli italiani, eleggete il presidente Giuliano Amato, il più odiato dagli italiani, il ladro di Nottingham. De Romano Prodi, e neanche De Amato, e neanche De Napolitano, e neanche Mario Monti, noi vogliamo, per carità, domandare ai cittadini se sono contenti. La faccia di Romano Prodi, che schifo, fiori. Amato, tutta gente che ha rubato, che ha mangiato un dischei, e voi metti Presidente della Repubblica, grazie, buongiorno. Vabbè, la parlata veneta era abbastanza traducibile, no? Paola Saluzzi e Luca Dini, no, si capiva. No, per il signore che voleva mettere in moto tutta la marina militare italiana. Sì, era... sì, vabbè, un gran classico, mettiamoli sulla nave, poi affondiamo, vabbè, sono sì. Sfoghi. Alla domanda, Luca, posso permettermi una domanda molto intima? Paola Saluzzi, la facciamo insieme, idealmente. Sì, certo. No, no, ma... Come? Allora, Paola Saluzzi, la domanda è molto classica. Scusa se entriamo un po' nelle tue abitudini quotidiane o non si sa, ma tu ti cambi le mutande tutti i giorni? Ma insomma, ma io sono rimasta senza parole. No, come senza, intanto rispondi. Ma assolutamente sì. Assolutamente sì, sì. Sono una sciupona d'acqua. Ah, ecco. Una sciupatrice d'acqua. Perché sì. Il ministro dell'ambiente Clini ieri, ieri è ecco. Andato a Un Giorno da Pecora, da quei disgraziati di Un Giorno da Pecora, e sentite, c'era anche Luca Giurato, e ha detto praticamente: uno si fa la doccia, mette lì le mutande e li fa prendere aria e poi magari le rimette, mutande che hai da 4 giorni. Ma come ti sentite da qua? E dopodiché ti rimetti le mutande che possibilmente usi da almeno 4 giorni. No, ma che schifo! E alle quali hai fatto prendere aria. Hai fatto prendere aria le mutande. Ecco, Luca Dini, 4 giorni. Abbiamo un ministro dell'ambiente che per risparmiare usa le mutande. 4 giorni, una roba. Una roba. No, sì, chapeau, ma ora. Che però c'era Luca Giurato, E allora? Ah, vabbè, sì, sì, c'era Luca Giurato, vabbè. Che diceva invece si usano tutti i giorni. Quindi tu, Paola, così ci confermi, no? Sei una sciupona, insomma, una sciupona. Sono una sciupona, sciuponissima. Vabbè. Stuponissima da questo punto di vista. Vabbè, mio Dio. Vabbè. Chissà se si cambia le mutande tutti i giorni anche Giselle Bündchen. Vi piace questo collegamento? Giselle, perché è la copertina di Vanity Fair, questa la riconosco anch'io. Giselle, non ho avuto bisogno come al solito della traduzione di Miriam Lucchetti. Giselle era quella che stava con DiCaprio, è giusto? Stava, vedi, so anche stava. Wow. Vabbè, oggi è la copertina di Vanity Fair. Però, nella mia solita scelta alternativa, mi ha molto colpito la storia di Lilli Carati. Io non la conoscevo, Luca. È una storia icona sensuale di tutta la mia generazione, insomma, Lilli Carati, no? E poi una vita che si è un po' perduta, possiamo dire? Beh, molto perduta, è una donna che è caduta nel tunnel della droga pesante, eroina, eccetera, che faceva film porno per pagarsi la droga sostanzialmente, fino a quando è caduta talmente in basso che ha tentato il suicidio, e quella cosa lì è stata la mia salvezza, mi ha salvato la vita e oggi è un'altra persona, molto segnato, devo dire, molto sincero, una bella intervista. Anche se devo dire che poi il messaggio che dà è quello di mi sembra positivo, cioè come dire, di speranza, nonostante tutto quello che ha passato. Beh, appunto, lei dice se sono viva io, se dopo tutto quello che è successo, insomma.

dei tagli a cui noi stiamo pensando, se non sostituita da altre forme di assistenza, come può essere il reddito di cittadinanza, però è un certo il punto di partenza. Eccolo qui, non taglieremo la cassa integrazione a meno che non possa essere sostituita con un'altra idea, tra cui il reddito di cittadinanza. Allora, ne vogliamo parlare con un deputato del Movimento 5 Stelle, Walter Rizzetto. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, dottor Milan, e ai suoi ascoltatori. Tra l'altro friulano, quindi insomma da quelle parti sì. C'è Beppe Grillo in questi sì, giorni. Beppe Grillo si fermerà con noi fino a venerdì, anche se io sono a Roma, Vabbè. Però Beppe Grillo sino a venerdì sera, insomma, ci sono le elezioni regionali. Sì. Saluto Carlo Stagnaro, che è direttore di ricerca e studi all'Istituto Bruno Leoni. Buongiorno e ben ritrovato, Stagnaro, eccoci qua. Buongiorno a tutti. Allora, Rizzetto, intanto vi accusano di fare è un cavallo di battaglia anche vostro del Movimento 5 Stelle, che però sia una cosa un po' fumosa, non si capisce la sostenibilità dei conti, non si capisce a quante persone vorreste darlo, cioè una cosa, vi accusano di essere una proposta un po' buttata là. Che cosa c'è di concreto in questa idea del reddito minimo garantito? Ma di concreto secondo me c'è l'idea di base che lo Stato italiano, lo Stato deve comportarsi effettivamente, deve continuare, deve riprendere a comportarsi da buon padre di famiglia, nel senso che in un momento di crisi, in un momento di cambiamento, in un momento drammatico, qual è quello che stiamo vivendo in questi anni, lo Stato deve essere vicino al proprio cittadino a tutti gli effetti e cercare con un reddito di cittadinanza, con un reddito minimo garantito. Qui c'è un po' di confusione. Sono due cose diverse, effettivamente. Sono due cose, sì. Ricordo per correttezza e per novizi, insomma, sono due cose differenti. Il reddito di cittadinanza, che è chiamato anche reddito di esistenza, ad esempio, è quel reddito che garantisce i bisogni primari effettivamente di una persona. Il vivere, abitare nella propria casa, rendersi comunque un minimo autonomi dalla famiglia. Il reddito minimo garantito invece è un'altra cosa, è un sussidio a tutti gli effetti erogato a tutti coloro che sono disoccupati, a tutti coloro che sono precariamente occupati, a tutti coloro che magari sono iscritti alla lista di collocamento. Sì. Cioè diciamo il reddito di cittadinanza cose. È una cosa proprio universalistica, cioè tu vivi Bravissimo, qui esatto. e non selettiva tra l'altro, no? Cioè, tu vivi esatto. qui, sei italiano, eccetera, hai diritto a un tot al mese per vivere. Il reddito di cittadinanza è un qualcosa di incondizionato a tutti gli effetti, nel senso che come giustamente ricordava lei non è un qualcosa che viene dato a qualcuno sì e a qualcuno no. Diciamo che in medio stat virtus, nel senso che dovremmo secondo me trovare una mediazione fra le due cose e cercare anche con gli altri competitors politici prossimamente nei lavori di commissione, che ricordo non sono ancora partiti, sì. a tutti gli effetti di cercare di fare qualcosa di interessante e di utile per i cittadini. Però potrebbe essere bella l'idea, ma i conti, lei capisce Rizzetto, in questo momento tra l'altro con 2.000 miliardi di debito pubblico, con lo Stato, la spesa pubblica eccetera, che dobbiamo fare? Anche garantire a tutti quanto viene a costare per le casse dello Stato una roba del genere? Ma guardi, noi in questo caso voglio dire i conti non sono ancora stati fatti proprio perché le commissioni ancora non sono partite. Una volta fatto un lavoro di commissioni è chiaro che noi rendiconteremo alla ragioneria quanto costerà questo reddito di cittadinanza o come vogliamo chiamarlo. Ricordo però che non è l'unica cosa che attualmente, anzi non è ancora in essere, ma c'è un assegno sociale che è già in essere, c'è già un assegno per le famiglie numerose, c'è l'assegno per la maternità, l'assegno per la pensione sociale, la social card esiste ancora. E quindi non dobbiamo fare i conti in tasca soltanto al reddito di cittadinanza, ma secondo me dobbiamo convogliare tutte queste forze in un contributo che sia unico con cui le persone insomma cerchino di vivere dignitosamente. Insomma, il concetto è comunque è tutto da calcolare, non vorrei coinvolgere anche qui Carlo Stagnaro, cioè i conti sono ancora da fare anche perché Rizzetto dice non ci fanno fare le commissioni, però bisogna dare un segnale perché ma questo in questo momento è poco ma sicuro, mi permetta di dirle e concludo, dopo passo la parola al dottor Stagnaro, che a tutti gli effetti i conti sono abbastanza difficili da fare in questo senso. D'altra parte lo stesso ministro del lavoro due giorni fa ha detto che mancava 1 miliardo di euro, ieri era 1,5 miliardi, oggi siamo a più di 2 miliardi per la cassa integrazione in deroga, quindi No, ma tra l'altro è interessante anche quello che ha detto Casaleggio Stagnaro, cioè che dice no, per carità, non vogliamo fare Italia la cassa integrazione, a meno che non siano compensati con iniziative tipo il reddito di cittadinanza, o come lo vogliamo chiamare, insomma una nuova formula o cittadinanza o reddito minimo garantito, insomma una sorta di sussidio da studiare bene. Stagnaro, da economista, che ne pensa? Ma penso due cose. La prima è che naturalmente è vero che è assolutamente ragione, ripeto, nel dire che il fatto che le commissioni non vengano formate di fatto paralizza il lavoro del Parlamento e impedisce anche di parlare in termini concreti di una serie di problemi, di urgenze, tra cui questo. È ugualmente vero che, come dire, un conto a spanne possiamo farlo sotto qualche ipotesi. Banalmente in Italia oggi ci sono circa 3 milioni di disoccupati, a questi si aggiungono altri equivalenti 500.000 disoccupati che sono coperti in vario modo dalla cassa integrazione, quindi abbiamo una platea di circa 3 milioni e mezzo di persone. Se supponiamo che il reddito minimo garantito valga circa 1.000 euro lordi al mese, mm-hmm, per tenere sì, i conti tondi, stiamo parlando di un giocattolo che è dell'ordine dei 42 miliardi di euro, 43-44 miliardi di euro all'anno. L'attuale cassa integrazione costa, tra contributo pubblico e contributi pagati dalle imprese, circa 18 miliardi di euro all'anno. Quindi, come dire, anche abolendo la cassa integrazione resterebbe una quota molto significativa da trovare, certo. E questo è il primo problema. Scusi, una cosa velocissima, poi voglio aggiungere la seconda. C'è un secondo tipo di problema che è legato al fatto che uno strumento come questo non può essere introdotto nel vuoto, ma va conciliato con altre cose. Benissimo il reddito medio garantito, ma contemporaneamente allora ripensiamo davvero le tutele ai lavoratori. La tutela del lavoratore è questa, e liberalizziamo davvero assunzione e licenziamento. Ah, beh, interessante questo, cioè basta articolo 18, basta questo, cioè vogliamo dare il reddito garantito, però liberalizziamo assunzione e licenziamenti. È davvero liberale, Carlo Stagnaro la butta lì. Larizzetto, che ne pensa? Sarebbe un accordo, un do des al quale lei penserebbe di poter accettare? No, penso di no, nel senso che, pur essendo d'accordo con la prima parte del discorso del dottor Stagnaro, non mi trovo molto d'accordo con il secondo, nel senso che stiamo vivendo comunque, come recitavo prima, una situazione drammatica. Noi in questi giorni ci stiamo incontrando ad esempio con i comitati per quanto riguarda gli esodati, con i lavoratori usurati, e secondo me una liberalizzazione troppo forte di assunzioni e licenziamenti in questo momento storico terribile sarebbe ancora più controproducente, effettivamente. E quindi non dovremmo essere, anche i lavoratori non dovrebbero essere delle macchinette che vanno su e giù e a pensare tutti i giorni, insomma, se effettivamente un domani avremo un lavoro, ma dovremmo cercare di dare un minimo di garanzia nel tempo ai lavoratori. Ma è vero questo sogno di Beppe Grillo? Oggi fa un'intervista al Fatto Quotidiano, dice magari ci arriveremo tra 20 anni, ma il sogno di lavorare 20 ore a settimana, ci arriveremo, lavorare meno. Perché avete questa idea di dire lavorare meno, avere più tempo, la decrescita? Ma perché sono tutti concetti a cui necessariamente dovremmo ritornare, assolutamente. Attenzione, noi non siamo contro il lavoro. Lei sta parlando con una persona che ha lavorato negli ultimi 15 anni dalle 12 alle 14 ore al giorno come libero professionista, e quindi io non sono contro il lavoro, assolutamente. Sono però a favore di coloro che a tutti gli effetti dicono: non voglio lavorare 8-10 ore al giorno, ma voglio lavorare un qualche ora in meno per dedicare più di qualche ora della mia vita effettivamente alla mia famiglia, a mio figlio, ai miei hobby, alle mie passioni. Tutto questo inserito in un discorso di decrescita che non deve significare ritorniamo all'età della pietra, sì. Ma sicuramente porre l'attenzione a qualcosa di cui noi ci siamo forse un po' dimenticati. E quindi questo è quello che noi proponiamo, sicuramente siamo a favore del lavoro. Questo sì, Stagnaro, su questo so già che, no, abbiamo già parlato in passato. No, ma lei non può agitare davanti a me il drappo rosso alle 8:30 di mattina. No, perché il drappo rosso non si sa se è il drappo rosso comunista o il drappo rosso del Toro. No, no, del toro. I comunisti non avrebbero mai accettato di parlare di decrescita. Allora la crescita piaceva e non avevano capito quali sono i mezzi per ottenerla. Però intanto Rizzetto dice no, lo scambio liberalizzazioni assunzioni, no, per carità, cioè ci vuole sussidio da studiare e anche tutele garantite. No, a me pare questo un eccesso di tutele, cioè, ripeto, il reddito minimo garantito, se ha senso, ce l'ha per offrire tutela e sicurezza al lavoratore e contemporaneamente mettere l'impresa nella condizione di non andare a fondo per non voler o non poter licenziare. Se manteniamo il doppio canale, rischiamo di mantenere tutti gli effetti negativi di entrambi i sistemi senza cogliere quelli positivi. Poi ci sono una serie di cose pratiche, di problemi pratici nel reddito minimo garantito che possono essere superati ma non possono essere ignorati. Uno ovvio è quello che non deve diventare un incentivo a rimanere disoccupati, questo uno in qualche maniera ti gira intorno dicendo se rifiuti un'offerta di lavoro perdi diritto. L'altro, meno ovvio e meno facile da controllare, è che non diventi un sussidio al lavoro nero, cioè io come in parte è già la cassa integrazione o era la cassa integrazione, io mi piglio il reddito minimo questo è un punto interessante. Infatti fermiamoci un attimo per la pubblicità, so che voi ci dovete lasciare attorno alle 8:40, ma comunque questo è il punto da cui voglio ripartire dopo, perché l'Italia è anche il paese del sommerso, l'Italia è il paese del lavoro nero, e che faccio io? Non lavoro, mi becco i soldi dallo Stato, poi lavoro in nero, quindi evado le tasse, mi becco un doppio stipendio di fatto, e come la mettiamo questa cosa? 24 mattino. Eccoci qui, cari ascoltatori, siamo sempre a parlare con Walter Rizzetto, che è deputato del Movimento 5 Stelle, e Carlo Stagnaro, direttore di ricerca e studi dell'Istituto Bruno Leoni, di questo reddito minimo garantito, reddito di cittadinanza. Allora, ci eravamo lasciati con questa domanda, Rizzetto, come la mettiamo col lavoro in nero di cui siamo maestri in Italia? Sì, purtroppo siamo maestri, perché ricordiamo tutti, insomma abbiamo letto tutti gli ultimi dati di evasione fiscale, comunque in crescita, nel 2012 hanno quotato più di 15% di evasione fiscale in Italia, quasi 300 miliardi, quindi è un dato anche questo assolutamente drammatico. Ora sarebbe molto difficile combattere l'evasione come è stata cercata di essere combattuta dall'ultimo governo Monti, ovvero fermando, e questo le dico perché vedo effettivamente quello che succede anche per strada, fermando le macchine per strada e proponendo un quantomeno improbabile reddito. Ma come l'ha fatto? Cioè dice bisogna combattere, faccia uno di quegli slogan dei vecchi politici, bisognerà combattere il lavoro nero, lo so, però come... Vabbè, questo è un dato di fatto lapalissiano che vada combattuto il lavoro nero, non so chi potrebbe essere contro questo dato di fatto. Certo. È chiaro che secondo me dovremmo andare più ad incidere su un aspetto culturale del lavoro nero che non su un aspetto tecnico, nel senso che a tutti gli effetti con gli strumenti che abbiamo oggi in Italia secondo me si potrebbe anche riuscire a recuperare qualche quota di lavoro nero. Mi vengono in mente, la prima cosa che mi viene in mente è, non so, detrazioni fiscali, ma in questo in maniera mi potrà essere sicuramente più utile, detrazioni fiscali più ampie rispetto, non so, a tutti i lavori che uno fa in casa. Sì, però l'accusa che dice Stagnaro è questa, quella di agitare il drappo rosso, cioè lei vuole o propone troppe garanzie ma poche libertà da parte dell'imprenditore anche di, insomma, come dire, agire, perché sennò uno ha troppo tutto garantito da una parte e zero garanzie dall'altra. No, ma guardi, io penso che quando effettivamente potremmo ipotizzare assieme, ad esempio, di abbassare le tasse, mettendo d'accordo sicuramente coloro che le tasse non vogliono pagarle, mettendo d'accordo anche l'imprenditore che attualmente paga dal 50 al 60% di tasse. Quindi ecco, facciamo questo slogan, come dice lei, abbassiamo le tasse, che a tutti gli effetti può sembrare pura demagogia, ma nella vita reale non lo è, abbassiamo le tasse e vedrete che sicuramente qualche quota di evasione fiscale la abbiamo sicuramente, e qualche imprenditore, che sono la spina dorsale, ricordo, del nostro paese, qualche imprenditore più felice di pagare un po' di meno tasse. No, ma questo sì, Stagnaro, abbassare le tasse vuol dire a maggior ragione dover trovare dei nuovi soldi. in principio sono assolutamente d'accordo, cioè il modo migliore per combattere il lavoro nero è abbassare le tasse da un lato, insisto, rimuovere le rigidità del mercato del lavoro dall'altro, e aggiungo la lotta all'evasione metterla un attimo in prospettiva, cioè è vero che i 100 miliardi da recuperare eccetera, ma se recuperassimo questi 100 miliardi quante imprese chiuderebbero eccetera eccetera, insomma è una cosa complicata. Detto tutto questo, abbassare le tasse è un'altra cosa che costa. Dicevamo, la differenza tra cassa integrazione e dintorni e reddito di cittadinanza sono 20 miliardi di euro mal contati. Sì. Diciamo pure che vogliamo abolire l'IRAP, io sono il primo che lo dice, e fanno altri 30 miliardi, sono 50 miliardi di euro da trovare. Non è che non si trovino, si trovano. No, si trovano, però, si possono trovare. Possono fare la lista delle spese da tagliare. È chiaro. Io so questo gioco, No, no, ma infatti, questo, se state a tagliare le spese pubbliche, figurarsi Stagnaro, si mette in fila, toglie il drappo rosso, si strappa la camicia e va e va a fare. Però, a cominciamo a fare il drappo rosso anziché farlo di seta, farlo di una stoffa un po' così di recupero. Sì, guarda, che c'è, ricetta? Bene, che io sono d'accordo, insomma, con il dottor Stagnaro quando dice facciamo bene i conti, nel senso che non dobbiamo andare a caso a fare questo tipo di ci mancherebbe. Questo è poco, ma allora io vi devo salutare, però Rizzetto, devo fare una domanda sulla questione delle Quirinarie. Lei cosa fa? Voterà la Gabanelli? Se la Gabanelli accetterà, perché si è presa questa notte di riflessione, se Gino Strada, cioè lei si atterrà, insomma, le Quirinarie sono state queste, quindi prima Gabanelli, secondo Gino Strada, poi Rodotà, poi gli altri, insomma. Questo che ne pensa? Lei la vede la Gabanelli? Io penso che sia uscito un nome affascinante, è una donna, è una giornalista di sicuro spessore, molto molto brava, e io voterò Gabanelli sicuramente, nel senso che se lei accetterà, io mi auguro che accetti la Gabanelli e mi auguro soprattutto che sia un nome che possa essere condiviso in maniera trasversale. Però guardi, c'è Presidente della Repubblica Milena Gabanelli, che è una giornalista straordinaria, su questo non c'è dubbio, però Presidente della Repubblica è un'altra cosa, cioè, come... Vabbè, sicuramente, però come tutti coloro che iniziano a fare politica, molto probabilmente, magari non tutti, ma qualcuno faceva qualcos'altro prima, quindi è un cambio di attività. Io però sono assolutamente sicuro che la Gabanelli sarà pronta, se accetterà, ad imparare nel giro di poche settimane la nuova attività che aspetta. Va bene, intanto vi ringrazio. Lo so, Stagnaro, su questo è altro drappetto rosso la Gabanelli, no, vabbè, giusto. No, io voglio Alessandro Milan Presidente della Repubblica. No, affondiamo in 3 giorni, sarebbero i 3 giorni più straordinari della storia della Repubblica, ma affonderemmo. Meglio in 3 divertendosi che in 365 facendosi il segato marcio. 365 per 7, quindi meglio 3 di gloria piuttosto che 7 anni di Gabanelli, dice Stagnaro, la traduco così. Va bene, vi ringrazio Walter Rizzetto per essere stato con noi del Movimento 5 Stelle, deputato, e Carlo Stagnaro dell'Istituto Bruno Leoni. Sentiamo Concetta da Bologna, buongiorno ascoltatori, Concetta. Buongiorno, dica. Io volevo semplicemente dire che uno dei problemi italiani è la mancanza di liquidità, perché tutti i denari sono stati portati via dall'Italia. Questo è uno dei problemi più grossi. Allora io farei una mi sente? Benissimo. Farei una proposta. Congeliamo tutti gli stipendi e tutte le pensioni sopra i 5.000 euro. E perché? Gli diciamo sopra i 5.000 euro, cioè fino a 5.000 euro te li diamo. Sopra i 5.000 segna. Collaboriamo tutti affinché. Ma segna, scusi, segna cosa, Concetta? Segna. Cioè, se uno guadagna 7.000 euro, gli requisiamo 2.000 euro? No, glieli requisiamo, no, li congeliamo. Praticamente. Li congeliamo. E in più facciamo in modo che ci sia un rientro di capitali, perché l'Italia è priva di capitali. Il rientro di capitali posso capirla, ma cos'è, un comunismo? No, per l'amor di Dio. Beh, no, ho capito, cioè scusi, livellare tutto a 5.000 euro e glieli congeliamo, che vuol dire? Cioè quei 2.000 euro... Aspettiamo che l'Italia riesca a riprendersi. Ah, te li mettiamo da parte, te li ridiamo. Sì, se c'è dopo la possibilità di restituirli. Ma è un po' comunista. È un po' comunista. Un pochino, sì. Perché, lei quei 2.000 euro cosa fa? Mica li congela, li tiene per lo Stato, per cercare... Cioè, ma esatto, affinché venga data la possibilità alla ripresa dell'Italia, perché in Italia è un po' tanto capitali. È un po' tanto comunista. È tanto, è forte. Abbastanza, Concetta, però è una proposta. Dai, sopra i 5.000 euro congeliamo. Congeliamo. 10.000 euro, 5.000 te li congeliamo. Scusi, ma tutti quelli che prendono 3 stipendi? E non possiamo congelarne almeno uno? Ma prendono tre stipendi in che senso? Cioè, chi prende tre stipendi? Chi ha il triplo incarico? Ieri ne parlava proprio lei. I parlamentari. No, guardi che prendono prendono uno stipendio, quelli che hanno più incarichi. No, glielo posso assicurare, per legge uno prende lo stipendio più alto e gli altri due invece no. Anzi, loro dicono così faccio risparmiare la comunità. Perché sì, prendono... non ci fanno bella figura, guardi. Quello senza dubbio, quello senza dubbio. Vabbè, Concetta, comunque bella questa proposta del congelamento un po' comunista. Un po' comunista lo è. Comunque andiamo a sentire. Un po' lo è la proposta. Andiamo a sentire il traffico e poi rientriamo. Eccoci qua, allora le 8:47 minuti, l'ultima parte di 24 mattino, ci ha raggiunto, voglio salutarlo, Stefano Fassina, onorevole del Partito Democratico, responsabile economico del partito. Buongiorno e benvenuto Fassina. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, prima di lei abbiamo parlato di questioni economiche, di questo reddito di cittadinanza o reddito minimo garantito, avevamo un esponente del Movimento 5 Stelle, avevamo Carlo Stagnaro, mi dica un po', perché ci sono anche alcuni esponenti del Partito Democratico che appoggiano questa proposta di legge. Lei personalmente come la vede come responsabile economico del partito? L'idea di un sussidio di qualche tipo in questo momento di precarietà, di difficoltà? Dobbiamo intenderci su che cosa vogliamo fare, nel senso che dietro con la definizione di reddito di cittadinanza vi sono diverse soluzioni. Noi, come indicato nella proposta di legge che lei ricordava, siamo favorevoli a un intervento che sia legato alla disponibilità al lavoro e sia legato alla partecipazione ad attività formative, quindi uno strumento di attivazione, di miglioramento delle condizioni del lavoratore o della lavoratrice al fine di reinserimento al lavoro, perché il nostro obiettivo rimane un lavoro di cittadinanza, e cioè il fatto che tutti possano partecipare al lavoro e ricevere un reddito adeguato dal lavoro in condizioni dignitose di lavoro. Però l'idea, cioè, mi pare di capire, il reddito di cittadinanza, che è una cosa universale, no, è un po' troppo oneroso, un po' troppo dispendioso, cioè il fatto di essere cittadino e per questo stesso motivo di ricevere un sussidio forse un po' troppo, ma l'idea di un reddito minimo garantito, cioè uno perde il posto di lavoro però si impegna, fa corsi di formazione, gli si trova magari un mercato del lavoro flessibile, un'altra occupazione, nel frattempo gli si dà un sussidio, a questo potrebbe, però come ci sono anche dei calcoli che avete fatto, lo sa, quanto si potrebbe dare, quanto potrebbe costare, dove si trovano i soldi? Ovviamente in una fase come questa, segnata da livelli di disoccupazione, di inoccupazione così elevati, i costi sono ingenti, e quindi andrebbe fatto uno sforzo di razionalizzazione di una parte della spesa corrente delle pubbliche amministrazioni, non con interventi e tagli orizzontali come si è fatto in questi anni, ma con una riorganizzazione della macchina amministrativa e poi arrivare appunto a reperire le risorse necessarie ad introdurre un reddito. Noi lo chiamiamo di cittadinanza attiva, di solidarietà attiva. Quanto potrebbe essere? Non so, 600 euro, 700 euro? Sì, potrebbe essere un livello, diciamo, analogo a quello della pensione sociale, e quindi stiamo parlando intorno a 500 euro al mese, che ovviamente interviene appunto come ultima istanza, quindi non sostituisce né la cassa integrazione né l'indennità di mobilità, è un reddito di coloro che esperiti questi strumenti non riescono ancora a trovare lavoro oppure non accedono a questi strumenti perché sono in altre condizioni. Senta, parliamo invece un pochino di politica, siamo alla vigilia del... qua non si muove nulla, non si muove, Fassina, non si muove nulla, cioè i cittadini guardano e dicono ma che stanno facendo? Ogni giorno paginate e paginate su accordi, accordicchi, nomi che salgono, nomi che scendono. A lei chi piacerebbe per esempio come profilo? Mi dica il nome proprio. No, i nomi non li dico perché diciamo siamo in una fase di discussione molto delicata, non è vero che non si muove nulla, ci sono discussioni in corso che purtroppo sono complicate perché stiamo andando a scegliere colui il quale deve garantire la Costituzione, deve rappresentare l'unità degli italiani per 7 anni, e non è una scelta facile in una situazione in cui, come è noto, ci sono forze politiche con posizioni diverse in Parlamento e considerato che noi per primi vogliamo costruire una soluzione condivisa, perché se avessimo voluto procedere da soli avremmo a questo punto già individuato il nome e avremmo trovato la soluzione, ma il nostro impegno è coinvolgere tutte le forze politiche in una scelta che ha come obiettivo, come indica la nostra Costituzione, quella di rappresentare tutti gli italiani. Quindi soluzione condivisa vuol dire anche con Bersani incontrerà Berlusconi. È questa la soluzione, secondo lei? Cioè trovare anche un nome che possa piacere anche a Berlusconi? A Berlusconi, come al partito di Grillo, come a Scelta Civica, come alla Lega, l'obiettivo è massimo. Poi ovviamente trovare una soluzione che possa andare bene al 100% dei parlamentari, al 100% dei cittadini, è tutt'altro che semplice, questo, ma lo sforzo è quello di coinvolgere tutti. Senta, tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento. C'è il tema Milena Gabanelli, cioè dovesse accettare, dire sì, accetto, lei Milena Gabanelli come la voterebbe mai? Ma guardi, stimo Milena Gabanelli come giornalista, una grande giornalista. Credo che per la Presidenza della Repubblica sia necessario, mi pare che anche lei stessa ieri abbia sottolineato questo aspetto, sia necessaria una significativa esperienza istituzionale, non si può improvvisare, non è un luogo dove si può procedere per tentativi ed errori, quindi con appunto tutto il rispetto per la professionista che la Gabanelli è, non credo abbia l'esperienza necessaria a ricoprire un incarico che appunto richiede una grande esperienza istituzionale. Quindi insomma poi vedremo, magari rinuncia, magari no, oggi lo verrà a sapere. Ho un'ultima curiosità, Fassina, adesso ce lo devi dire, ma senta, ma con Renzi lei si è mai incontrato personalmente? Perché lui non frequenta tanto il partito a Roma, lei, cioè vi siete mai incontrati faccia a faccia? Sì, ci siamo incontrati e, in occasioni così pubbliche però magari. Sì, sì. E com'è andata? Lei lo saluta Renzi se lo incontra? Assolutamente sì, ci siamo salutati, non è un problema personale, è un problema di posizioni politiche, di rispetto della comunità di cui facciamo parte, ci vuole rispetto. Lui non ce l'ha, secondo me, non ce l'ha. Per tutte le persone. E se non c'è rispetto una comunità non va avanti, nessuna comunità, tantomeno un partito. Il rispetto reciproco è la condizione necessaria per poter discutere su posizioni che poi sono legittimamente diverse. Ma perché lei dice lui non ha rispetto? Ma gli interventi che ha fatto negli ultimi giorni non mi pare siano stati all'insegna del rispetto. Le posizioni, ripeto, sono tutte legittime, si possono esprimere senza offendere la dignità delle persone alle quali ci si rivolge. Vabbè, insomma, però si è preso anche un miserabile, per esempio, da Anna Finocchiaro, che non è poco, ecco, come replica. No, ma non credo che non si possa mettere in discussione la serietà, la professionalità, la passione politica, l'onestà della senatrice Finocchiaro. E quindi credo che un'offesa come quella che le è stata fatta sia assolutamente ingiustificata. E quindi la risposta c'è stata. Va bene, intanto io la ringrazio, Stefano Fassina. Andiamo a vedere come andrà a finire da domani. E intanto ci ritroviamo alle 6:30 domattina. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.